In effetti è partito un circo mediatico che ha creato davvero confusione e anche esacerbato il conflitto che c'è tutti i giorni in strada in maniera un po' inutile e irresponsabile. Proviamo a mettere le cose un po' in ordine. Innanzitutto stiamo parlando non di norme già vigenti, ma di proposte di modifica e riforma del codice della strada che sono attualmente in discussione e non ancora approvate. Seconda cosa, né i disegni di legge depositati né chi sostiene queste proposte, tra cui ci sono anch'io e da tempi non sospetti fin dal 2012, nessuno chiede di rendere libero il contromano, tantomeno in modo selvaggio come è stato scritto da alcuni giornali. Io, per essere molto chiaro, sono contrario a un liberi tutti e non difendo chi va in bici sotto al portico, chi passa col rosso che va giustamente multato. Allo stesso modo però sono favorevole già da diversi anni alla introduzione anche in Italia di tutta un'altra cosa che è il doppio senso ciclabile. Doppio senso ciclabile cos'è? È rendere possibile a determinate condizioni e con una regola ad hoc prevista dal codice della strada e poi applicata di volta in volta dove ci sono le condizioni di sicurezza per farlo dai comuni, la possibilità di rendere una strada che ha senso unico per le auto invece a doppio senso per le biciclette. Ecco, il paradosso è che questa norma, che viene vista come appunto un liberi tutti al contromano selvaggio, è in realtà, a mio avviso, proprio ciò che ci servirebbe per uscire dall'anarchia attuale, che non va bene né a chi si muove in macchina né a chi si muove in bici, e dare una regolamentazione proprio legale, ordinata e sicura per tutti. Non ovunque, ma in strade a bassa velocità e a basso traffico, non in modo free anarchico, ma dove ci sono le condizioni e dove è segnalato bene. È una cosa che esiste nella stragrande parte dei paesi europei, ma per andare molto più vicino esiste dal 2008, da 11 anni, a Reggio Emilia, dove tra l'altro non alcune strade, ma tutte le strade del centro storico sono state rese a doppio senso ciclabile e i numeri dicono, a ormai più di 10 anni di distanza, che gli incidenti sono calati, non sono aumentati. Proviamo a fare uno sforzo di immaginazione e le chiedo, visto che siamo a Bologna, di fare una prova di proiezione. Ecco, ci battezzi per esempio una strada che lei considera papabile per questo tipo di soluzione e i cittadini che cosa si potrebbero quindi trovare di fronte, anche rispetto per esempio alla segnaletica o come viene organizzata la carreggiata? Due esempi sicuramente potrebbero aiutare. Uno che esiste già, perché a Bologna l'abbiamo già sperimentato, senza grande clamore e senza incidenti di nessun genere, e un esempio invece di cui ci sarebbe estrema necessità e priorità. Se noi già oggi, da ormai più di 2 anni, passiamo in via Petroni, vediamo che è consentito alle biciclette venire anche da Piazza Aldrovandi verso Piazza Verdi, invece per i veicoli a motore il senso unico di marcia è da Piazza Verdi verso Piazza Aldrovandi. La segnaletica è molto semplice, un cartello all'inizio della strada che indica agli automobilisti, agli scooteristi, la possibilità che le bici vengano anche in giù e semplicemente a terra ogni tanto un disegno della bicicletta con la freccia per ricordare sia ai ciclisti qual è il loro spazio, sia agli automobilisti che da quel lato potrebbero scendere delle biciclette. Non mi risulta, non ci siano stati in questi 2 anni particolari incidenti. Dove si potrebbe replicare questo modello semplice, efficace e sicuro? Ad esempio in via Guerrazzi, dove ci sono state numerose multe della cosiddetta campagna del risveglio civico di Vigili in Borghese a bici in contromano, io credo che quella sarebbe appunto un'altra strada dove applicare questa misura, semplicemente spostando i parcheggi dall'altro lato della strada e consentendo anche in via Guerrazzi come in via Petroni il doppio senso ciclabile. Ci sono delle caratteristiche minime che devono avere le strade, le carreggiate per poter essere, diciamo, convertite a questo doppio uso? Allora, in questo momento in realtà il doppio senso ciclabile, pur non essendo normato dal codice della strada, è ammesso a determinate condizioni da un parere del Ministero dei Trasporti, che ad esempio prevede che ci debba essere una velocità di 30 km orari, che dobbiamo trovarci in strade secondarie inserite in ZTL e larghe almeno 4 metri. Okay. Ovviamente sono condizioni che non sempre è facile trovare in centri storici medievali, ma appunto gli esempi che ho fatto dimostrano che si possono fare delle sperimentazioni. Capisco bene che intuitivamente viene da pensare che sia pericoloso. In realtà tutti i dati statistici e l'esperienza pratica, appunto, non occorre andare ad Amsterdam, non occorre andare a Reggio Emilia, ce l'abbiamo anche in via Petroni a Bologna, dicono che in realtà col doppio senso ciclabile la sicurezza migliora per tutti. E in effetti, al di là della prima comprensibile impressione, è ragionevole che sia così, perché c'è un'adeguata segnaletica che avverte tutti, perché si crea frontalmente una visibilità diretta e reciproca tra macchine e bici, e perché ci spinge a rispettare quel limite di 30 km/h che, se osservato per davvero, consente di evitare scontri. Io volevo, Andrea Colombo, sollecitarle, comunque chiederle ovviamente un minimo di aggiornamento, un suo parere, una posizione rispetto alla vicenda della velostazione Dinamo. Sappiamo, dovevano partire dei cantieri, dei lavori a ottobre, non sono partiti, ci sono grossi ritardi e in questo momento, insomma, c'è grande incertezza tra i lavoratori, che stanno comunque subendo in questo momento un danno economico, una riduzione del personale, e ci sono dei grossi punti interrogativi. Qual è il ruolo, diciamo, del comune in tutta questa vicenda, e che cosa si può fare per cercare di preservare quello che anche lei, insomma, considera un importante patrimonio di cultura e di civiltà per la nostra città? In effetti ci sono stati ci sono dei problemi tecnico-legali abbastanza importanti sulla gara d'appalto per questi lavori. Il comune è stato in prima fila nel promuovere questo progetto meraviglioso e nel sostenere anche la nascita della startup, che poi è cresciuta grazie alla passione quotidiana di decine di soci, di lavoratori, che vanno ringraziati anche per aver già passato 3-4 inverni al freddo in attesa di questo cantiere di ristrutturazione. Credo che, come abbiamo investito tantissimo su Dinamo, allo stesso modo adesso dobbiamo fare tutto il possibile per superare al più presto le difficoltà burocratiche, e soprattutto per dare futuro a questa esperienza, che è insieme uno spazio rigenerato della città, prima era un garage per auto, oggi è un luogo di comunità, un servizio pubblico che è diventato fondamentale per migliaia di cittadini e turisti della città, e anche una fonte di occupazione e di lavoro. Ecco, e quindi concretamente che cosa vi immaginate che si possa fare, arrivati a questo punto? Perché la situazione, almeno dalle dichiarazioni ovviamente da parte di chi gestisce la velostazione, sono di grande preoccupazione, quindi, diciamo, passi concreti o reali quali potrebbero essere nei tempi stretti? Io credo che in questo momento la cosa indispensabile anche per i lavoratori e per la cooperativa che gestisce Dinamo sia avere delle certezze, in un senso o nell'altro. Se c'è possibilità di avviare a breve, in tempi ragionevoli e programmabili, i lavori, perché non ci sono contenziosi legali, si faccia di tutto per far partire al più presto questi cantieri. Se viceversa questa possibilità realisticamente non c'è, si dia una adeguata proroga alla gestione, alla convenzione attuale, per consentire di riavviare, seppur con fatica, le attività non solo dei servizi bici, ma anche dell'area eventi, che nella sostenibilità complessiva del progetto, anche imprenditoriale, e soprattutto nel tipo di offerta che si è creata complessivamente per la città, è fondamentale. Allora, due domande proprio secchissime sui tempi. Rispetto a questo, se vi siete dati in qualche modo, lei si immagina in qualche modo una deadline, e l'altro invece, che cosa succederà quindi, se ci sarà una proroga, diciamo, del bando, ma alla termine di questa proroga, che era di comodato d'uso, che doveva chiudersi ad agosto, che cosa potrebbe succedere? Sui tempi credo che dobbiamo stare agli impegni che si è presa la Giunta tramite l'assessore Lepore, ufficialmente e pubblicamente in question time, anche a seguito di una mia interrogazione alla Giunta, cioè entro 2 mesi o la va o la spacca, cioè okay. Entro 2 mesi si può partire con i lavori, si fanno partire, altrimenti i cantieri si spostano decisamente più in là, e dà però la possibilità all'associazione di avere una proroga già prevista, tra l'altro, dalla convenzione vigente in caso di ritardo o comunque per la durata dei lavori. E per quanto riguarda invece la convenzione, che doveva chiudersi ad agosto e che quindi, come lei sta dicendo, potrebbe essere prorogata, ci sarà poi comunque previsto un rinnovo? Questa modalità modalità, la modalità per proseguire questa esperienza della velocizzazione dovrà essere ovviamente individuata dalla giunta. Quello che io credo sia importante sono due cose. La prima, ci apprestiamo, speriamo davvero presto, a investire 1,5 milioni di euro per consolidare la funzione di quel luogo come velostazione, quindi è indispensabile che anche per il futuro quel luogo rimanga adibito a velostazione con tutto quello che significa, servizi per le bici ma anche luogo di comunità, di socialità e di cultura. Secondo, che si continui a valorizzare questa modalità di gestione di servizi pubblici che mette assieme una partnership tra pubblico e privato, tra la professionalità e l'elemento invece comunitario.